Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Che settimana, anche questa settimana, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ne sono successe come sempre tutte, inutile dirlo. Diciamo gli ultimi due giorni, soprattutto due o tre giorni, dominati dal Datagate, però per quanto riguarda almeno noi italiani, oggi verso la chiusura della giornata, appunto quando è il nostro appuntamento con le notizie, con il quadro della giornata, c'è la come notizia principale quella del PDL con Berlusconi, che ha appena tenuto una conferenza stampa in cui praticamente ha detto che in realtà i contrasti sono superabili all'interno del PDL, che si può mantenere l'unità, e ha anche annunciato, insomma, che finisce l'era del PDL e inizia quella di Forza Italia. Poi dall'altra parte a Firenze c'è la Leopolda di Renzi, quindi PD e PDL che cercano un po' di affilare, diciamo così, le lame, i denti, o come volete dire, per quello che sarà il prossimo vicinissimo futuro. Durerà questo governo delle larghe intese oppure ognuno cercherà la propria strada? Ci saranno elezioni? Tanti interrogativi, ma incominciamo dalle cose certe, cioè dalle notizie di oggi attraverso i titoli. Quindi la politica, PDL oggi a Palazzo Grazioli ha avuto l'ufficio di presidenza senza Alfano e i ministri, che sancisce, come vi dicevo, la fine del PDL e il ritorno a Forza Italia. Berlusconi, questa conferenza stampa al termine della riunione, dice: nel PDL ci sono stati contrasti e incomprensioni personali, ma sono sicuro che saranno sanati. E sulla domanda relativamente alla grazia nei suoi confronti, Berlusconi dice: è una decisione che spetta al capo dello Stato. Sapete quante polemiche anche su questo argomento. Allora il PDL invece riparte dalla quarta edizione della Leopolda di Renzi a Firenze. Intanto Napolitano annuncia che ci saranno modifiche al Porcellum, cioè alla legge elettorale definita una porcata, entro il 3 dicembre. Spostandoci all'estero, Fukushima in Giappone, è stata ordinata l'evacuazione del personale nella centrale nucleare dopo un terremoto registrato in serata a est dell'isola di Honshu di 7,3 gradi e l'allerta di un imminente tsunami di un metro sulle coste a seguito di questo sisma. Poi dall'Europa, durante il vertice di Bruxelles, arriva la solidarietà ai paesi mediterranei sull'emergenza immigrazione, ma per le misure concrete serviranno ancora mesi. È stata arrestata la donna che nelle chiese ha ucciso il figlio di 3 anni, forse la sua era una depressione postpartum. La bimba bionda Maria, scoperta giorni fa in un campo rom in Grecia, il test del DNA dice che i genitori sono dei rom bulgari, una coppia di rom bulgari, Sasha e Atanas Rusev. E poi questa proposta di acquisto per la RAI da parte dell'imprenditore tunisino Tarak Ben Ammar, se fosse in vendita, dice, sono disposto a comprarla. Iniziamo quindi naturalmente con la politica, con le tante fibrillazioni del PDL che sembrano abbiano trovato un modo di essere convertite in questo ufficio di presidenza che c'è stato oggi, almeno dalle rassicurazioni che dà il leader Silvio Berlusconi. Ma ci facciamo raccontare da Vincenzo Miglietta, che era lì a Roma in diretta. Vincenzo. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Io partirei subito da due notizie. La prima, ma lo hai anticipato dai titoli, il Popolo della Libertà smette di esistere con oggi, quindi nasce, si torna ufficialmente a Forza Italia, oppure una Forza Italia 2.0 come la vogliono chiamare in molti. La seconda notizia però, Roberta, è che il Berlusconi, la nuova Forza Italia, non toglie il sostegno al governo Letta, e questo è un messaggio importante che viene mandato da Palazzo Grazioli. Infatti, allora facciamo così, Vincenzo, visto che c'è stata poco fa la conferenza stampa, facciamo sentire che cosa ha detto, un piccolo estratto di questa conferenza stampa di Berlusconi, poi torniamo insieme. Denuncia la persecuzione politica, mediatica e giudiziaria in corso da 20 anni contro il presidente Silvio Berlusconi, eletto liberamente e democraticamente da milioni di cittadini italiani. Un attacco che colpisce al cuore la democrazia, lo Stato di diritto e il diritto alla piena rappresentanza politica ed istituzionale di milioni di elettori. Ritiene assolutamente inaccettabile la richiesta di estromissione dal Parlamento italiano del leader del centrodestra, sulla base di una sentenza infondata ed ingiusta e sulla base di una applicazione retroattiva della legge penale, ribadisce l'impegno assunto solennemente dinanzi agli elettori a battersi per un rilancio vero della nostra economia. I nostri rappresentanti di governo, governo a cui continueremo a dare il nostro sostegno nel rispetto degli impegni programmatici assunti al momento dell'insediamento, sono impegnati a contrastare ogni iniziativa che vada nella direzione opposta e a proporre efficaci misure per la ripresa della nostra economia in sintonia con le altre economie dei Paesi membri dell'Unione Europea. Ribadisce l'impegno per una riforma indifferibile della giustizia italiana, sia civile che penale. Delibera la sospensione delle attività del Popolo della Libertà per convergere verso il rilancio di Forza Italia. Ecco Vincenzo Miglietta, quindi abbiamo sentito che appunto ha riconfermato il sostegno al governo Letta, ha ribadito la necessità di una riforma della giustizia e di nuovo la sua innocenza e questa persecuzione di cui parla da anni nei suoi confronti, no Vincenzo? Sì, sì, è così. Un passaggio importante infatti è dedicato alla necessità della riforma della giustizia. Si parla molto di riforme in questi giorni, ma il tema un po' per tutti è quello della legge elettorale. Invece oggi Berlusconi torna sulla necessità che si metta mano al mondo della giustizia. Quanto Roberta al ritorno di Forza Italia, bisogna però ricordare che il passaggio ufficiale è stato rimandato all'8 dicembre. Proprio una data epocale, visto che anche il PD ha le primarie, no? Vedremo cosa succede. Sì, è vero, al Consiglio nazionale dell'8 dicembre. E va poi ricordato che oggi all'ufficio di presidenza non ha partecipato Alfano, non hanno partecipato i ministri del PDL, i cinque ministri del PDL nel governo Letta, ma non hanno partecipato anche fedelissimi storicamente di Berlusconi, due tra tutti, Schifani e Gasparri. E che cosa hanno detto? Non partecipiamo perché vogliamo lavorare per il bene del partito, non vogliamo segnare ulteriormente una distanza con chi già non è presente. Questo per dire che evidentemente da tutte e due le parti, lealisti e governativi, si cerca di non arrivare allo strappo, uno strappo rinviato, ma indubbiamente però il partito al momento è spaccato e c'è molta tensione. Grazie Vincenzo Miglietta, grazie. Buonasera. Intanto, e per quanto riguarda invece il PD, poi vi ricordo che ne parleremo anche della Leopolda, di chi c'è, di chi non c'è, di chi c'era la prima edizione, di chi invece salta sul carro del vincitore, ne parleremo dopo il racconto della giornata, dopo le 21:15, però dicevo, per quanto riguarda appunto il PD, occhi puntati sul convegno di Renzi per appunto la quarta edizione della Leopolda a Firenze, che riunisce tutti i suoi sostenitori. Pittella, uno dei quattro candidati alle primarie del PD come anche Renzi, inizia intanto un tour dell'Italia. Nel Partito Democratico la battaglia per la segreteria entra nel vivo. Matteo Renzi e Gianni Pittella accendono i motori in vista delle primarie del PD dell'8 dicembre, dove troveranno anche Gianni Cuperlo e Pippo Civati. Il sindaco di Firenze in particolare riunisce i suoi sostenitori da questa sera a domenica per la quarta edizione della Leopolda. A 24 mattino Renzi ha ribadito la necessità di semplificare la burocrazia. Rivoluzionando le regole del lavoro. Semplificare. Sa quante sono le norme che compongono il corpus normativo del lavoro in Italia? Più di 2000. Perde la testa anche uno specialista. 50-60 regole. Semplificare la burocrazia, rivoluzionando la formazione professionale. E sul rapporto con il Premier Letta Renzi ha spiegato: per fare le riforme lui dice che ci vuole il cacciavite, io sono più per il caterpillar. Meno imposte sul lavoro anche per Gianni Pittella, che ha scelto Milano come prima tappa di un viaggio da nord a sud per presentare il suo programma. L'europarlamentare rilancia una tassa patrimoniale sui redditi finanziari ed è favorevole al reddito minimo garantito e a una politica per la casa a favore dei più giovani. Un messaggio ai giovani: abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno della vostra carica di entusiasmo, della vostra critica, della vostra voglia di partecipazione. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto il capo dello Stato Napolitano ribadisce l'urgenza che le Camere modifichino il porcellum prima dell'intervento della consulta previsto il 3 dicembre, cioè consulta che potrebbe ritenere incostituzionale il porcellum, quindi chiede di cambiarlo prima di quella data. Questo si legge in una nota del Quirinale. Intanto linea dura del Movimento 5 Stelle e Lega nei confronti sempre del Quirinale di Napolitano, invitati al Colle per un confronto sulla legge elettorale, hanno fatto sapere che non andranno. E oggi intanto il capo dello Stato ha ricevuto le delegazioni invece di SEL e di Fratelli d'Italia. E c'è sempre, naturalmente, come tema caldo anche il rapporto tra politica e giustizia, in primo piano oggi nel congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati. Basta con attacchi scomposti alle sentenze, con campagne giornalistiche offensive, basta parlare della giustizia come un potere piegato a scopi politici. Si apre il congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati e in primo piano ancora il tema del tormentato rapporto tra politica e giustizia, uno dei passaggi più applauditi della relazione del presidente Rodolfo Sabelli. Un pericoloso clima di scontro che la magistratura rifiuta nell'irrinunciabile necessità del recupero di una condivisa responsabilità istituzionale. Quanto alla legge Severino, l'ANM ritiene che occorrano correttivi vista la persistenza di gravi e diffusi fenomeni di corruzione. Ad intervenire anche il ministro della giustizia Cancellieri, che ricorda come sia improrogabile una riforma della giustizia. Non possiamo più permetterci arretramenti né tentennamenti sul terreno delle risposte che lo Stato deve dare ai cittadini. Ma c'è spazio anche per una riflessione autocritica. Il presidente della Cassazione Santa Croce se la prende con le esposizioni mediatiche di alcuni magistrati passati alla politica e avverte la giustizia non è uno show. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Diciamo nei titoli del Giappone, questo forte sisma che ha colpito oggi lo Stato alle 2.10 ora locale e sarebbero le 19.10 ora italiana, circa 290 km al largo di Fukushima della centrale, è stato avvertito a Tokyo a 480 km di distanza. La magnitudo, a seconda delle fonti, varia tra i 6.8 e i 7.3, secondo i quotidiani nipponici online, al momento comunque non si registrano danni. Parliamo invece del vertice europeo, in primo piano oggi con all'ordine del giorno il tema dell'immigrazione. Sentiamo allora quali sono stati i risultati. Passi avanti, annuncia il premier Enrico Letta al termine del vertice europeo che ha dedicato buona parte della seconda giornata al tema dell'immigrazione, ma il bicchiere appare mezzo pieno. Sentiamo il premier Letta. Mi sembra che il passo avanti oggettivamente ci sia sul tema delle migrazioni e della centralità del dramma del Mediterraneo. Oggi l'Europa ha finalmente fatto un passo avanti. A rincuorare l'Italia ci sono gli aerei promessi da Francia e Olanda per rafforzare la missione Frontex, ma per il momento i progressi concreti sono pochi. Il successo è soprattutto diplomatico. I 28 hanno raggiunto l'accordo su tre principi guida sul fronte migratorio: prevenzione, protezione e solidarietà. In più si sono impegnati al rafforzamento di Frontex ed Eurosur. A parole dunque obiettivo raggiunto. Nei fatti però il grosso viene rinviato al rapporto che la task force istituita da Commissione Europea e Stati membri farà in vista del Consiglio Europeo di dicembre per quanto riguarda le misure a breve termine e addirittura al Consiglio Europeo di giugno per una revisione di lungo periodo della strategia migratoria. Su questo la cancelliera tedesca Angela Merkel è stata chiara. Bisogna distinguere tra le misure immediate e la prospettiva di lungo periodo in cui rientra la revisione delle politiche europee per l'asilo, dice la Merkel. Sulla Datagate è un'intesa enigmatica e piena di compromessi in cui si punta a rivedere le relazioni con Washington sul fronte dell'intelligence. Troppo complesso superare la posizione filoamericana della Gran Bretagna. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dunque, abbiamo detto il tema dell'immigrazione affrontato dal Consiglio Europeo e da Lampedusa arriva però una brutta storia che si aggiunge al resto. Elicotteri all'amianto sotto accusa. La bonifica che sarebbe dovuta partire a settembre. Restano i rischi per chi lavora su questi mezzi, alcuni dei quali impiegati anche nell'operazione Mare Nostrum, proprio per cercare di portare soccorso ai naufraghi. Il partito per la tutela dei militari chiede se è necessario di fermare quei velivoli. Sentiamo il segretario Luca Comellini. La difesa sapeva già dal 96 che questi elicotteri, questi modelli di elicotteri prodotti dalla Gustav Westland, contenevano particolari con la presenza di asbesto, di amianto. La difesa sapeva ed ha taciuto. Dopo la mia denuncia fatta nel mese di agosto, le procure hanno cominciato a interessarsi del problema. Il ministro della difesa ha assicurato immediato intervento, ma se l'intervento assicurato dal ministro Mauro è quello che abbiamo potuto vedere nelle foto pubblicate da Repubblica, mi sembra chiaro che sia stato un totale fallimento. A questo punto, siccome la priorità è la sicurezza dei mezzi e della salute del personale, allora è tutto da rivedere. Occorre fermare gli elicotteri se è necessario. Adesso invece dobbiamo far andare chi sta viaggiando, farlo andare con sicurezza e con le indicazioni, quindi aggiorniamo per strade e autostrade, poi ritorniamo qui ancora con qualche notizia, servizi, interviste e poi ci saranno man mano gli ospiti. Partiremo dalla Leopolda, c'è la pagina Effetto Notte su Facebook, ve lo ricordo, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, anche per commentare le notizie man mano che vi racconto, in particolare su Renzi, se andate a vedere la pagina. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi, proseguiamo ancora con questo racconto delle notizie. Parlavamo prima di questi elicotteri all'amianto sotto accusa che servono anche appunto per le operazioni Mare Nostrum, e rimaniamo sul tema dell'immigrazione, perché oltre 700 sono stati i migranti soccorsi nel canale di Sicilia da ieri notte a Lampedusa, quindi un nuovo picco di presenza. Il centro d'accoglienza dell'isola sta infatti raggiungendo la saturazione, come spiega Cono Gallipò, responsabile della struttura. L'ha intervistato Claudio Avanni. Abbiamo 618 presenze in campo, di cui 404 uomini, 106 donne, 108 minori, di cui 24 non accompagnati. Stanno per arrivare altri 90, ce ne andiamo a 700 presenze stasera. La capienza della struttura è sufficiente? Ci sono 270 posti letto normalmente. Noi abbiamo per l'occasione svuotato gli uffici amministrativi, che è un altro padiglione di oltre 500 metri quadri, più magazzini, e abbiamo fatto dormitori per gli immigrati. Quindi abbiamo oltre 650-700 posti a dormire. Siete quindi riusciti ad accogliere tutti? Sì, a parte qualche decina di persone che preferiscono stare fuori per motivi di etnie diverse, che non vogliono stare assieme agli altri. Soprattutto gli eritrei e i siriani. Non siete ancora in una situazione di collasso? Tutti i buchi dove era possibile mettere delle persone, noi lo abbiamo fatto. Ne arrivassero altri 200, è chiaro che noi li accogliamo con le condizioni in cui ci sono. Ecco, non è un hotel. Dica, dottore, ma la prego senza giri di parole. C'è una famiglia di malattie molto rare, le leucodistrofie. Lorenzo ha una di queste, l'adrenoleucodistrofia, chiamata anche ALD, è un errore del metabolismo. Vi ricordate questo film? Qualcuno se lo ricorderà, è L'olio di Lorenzo. Augusto Done, che era questo carismatico economista italiano della World Bank, che dedicò gli sforzi di una vita insieme alla moglie a salvare il figlio malato di appunto adrenoleucodistrofia, ispirando nel 1998 il film che avete sentito, L'olio di Lorenzo, con Nick Nolte e Susan Sarandon, è morto ad Acqui Terme in Piemonte, lo ha annunciato la figlia Cristina. Per prolungare la vita del figlio Lorenzo, rallentando il decorso inesorabile di questa malattia, Augusto e la moglie Michela si improvvisarono praticamente scienziati, misero a punto una terapia basata su due comuni oli da cucina, sfidando l'ortodossia medica, e Lorenzo, a cui 6 anni i medici avevano dato, cioè che aveva 6 anni e aveva dato ben poco da vivere, è morto nel 2008 all'indomani del suo 30° compleanno nella casa alle porte di Washington, dove per 23 anni era rimasto confinato in un lettino da paralitico. Estero, con la Nigeria, 74 membri del gruppo islamista Boko Haram sono stati uccisi in un'offensiva dell'esercito nello stato nord-orientale del Borno. Si tratta della più vasta operazione degli ultimi 4 anni contro la setta responsabile, appunto la Boko Haram, di decine di sanguinosi attacchi contro i cristiani e contro le istituzioni del paese. E la bambina piccola Maria bionda rom, di cui si è parlato molto in questi giorni, che era stata trovata in un accampamento, in un campo rom in Grecia, bene, questa bambina è figlia di una coppia di rom bulgari, Sasha Tanas Rusev, sono i veri genitori, è venuto fuori dai test dei DNA divulgati dal Ministero degli Interni bulgaro. Parliamo adesso, torniamo sulle notizie italiane con la RAI, che non è in vendita. Spiace deludere l'imprenditore Tarak Ben Ammar, ma nessun grande paese europeo si è privato del servizio pubblico radiotelevisivo. Il segretario nazionale dell'USIGRAI, Vittorio Di Trapani, risponde in questo modo all'imprenditore arabo che in un'intervista a Radio 24 ha manifestato interesse per l'azienda, per la RAI. Sentiamolo al microfono di Giovanni Minoli. La RAI nel 2016 scade la convenzione con lo Stato che gli affida in esclusiva il canone. Ecco, secondo lei in quel momento potrebbe essere privatizzata? Penso che sarà una cosa molto positiva privatizzarla, come ha fatto la Francia con TF1. Così la politica esce fuori dalla televisione, che è un grande problema. Ovviamente poi, per rinnovare la concessione, dovremo vedere voi italiani che linea editoriale il servizio pubblico dovrebbe avere. E a questo punto, se la RAI è vendibile, siamo qua. Bene, direi che a questo punto abbiamo un quadro abbastanza esauriente della giornata e cominciamo allora con gli ospiti in diretta. Vi dicevo quindi, PDL da una parte che domina sicuramente la serata con questo ufficio di presidenza che c'è stato, con la conferenza stampa di Berlusconi e quello che ha detto, che abbiamo sentito ampiamente. Andiamo a vedere invece che cosa sta facendo il PD con Renzi, che, insomma, salvo sorprese, diciamolo sinceramente, non per augurare una cosa o l'altra, dovrebbe essere il vincitore delle primarie dell'8 dicembre, ma tutto può succedere, ha lanciato la sua quarta edizione della Leopolda a Firenze, inizia oggi per tutto il fine settimana. Là c'è anche David Allegranti, che saluto. Ciao David. Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. Giornalista, ascoltatori, si sente subito il tuo accento fiorentino, giornalista del Corriere Fiorentino e anche collaboratore del Foglio. Davide, ha scritto anche un libro su Matteo Renzi, Il Rottamatore. Oggi hai scritto questo simpatico articolo su Europa che dà proprio come una specie di affresco di quello che succede alla Leopolda, cioè hai parlato di quelli che... ci sono lì dalla prima ora, dalla prima edizione, quelli che invece arrivano adesso freschi freschi, ci sono quelli di ritorno, di riflusso, come li hai definiti tu, ci sono anche quelli che saltano sul carro del vincitore, no? Com'è questo? Ce lo ridipingi sì, in onda? Ci sono le 50 sfumature di renziani, come quelle di Grigio, nel senso che adesso la Leopolda si è fatta istituzionale, si è fatta establishment, perché mentre la prima Leopolda, per esempio, non c'erano tutti questi parlamentari che sono arrivati adesso, stanno arrivando 200 parlamentari, perché appunto Renzi era odiato dal sistema e odiava il sistema. Perché lo voleva rottamare, no? E lo voleva rottamare, ecco. Però adesso insomma c'è stato un cambio diverso, cambia verso lo slogan della campagna elettorale di Renzi del 2013 di adesso per il congresso, e c'è stato anche un cambio diverso da parte dei bersaniani che sono diventati rottamatori, renziani, arriverà Dario Franceschini, qui già c'era David Sassoli stasera, Francesca Puglisi, insomma tutte persone che l'anno scorso stavano con Bersani e che adesso sono state improvvisamente folgorate sulla via di Rignano sull'Arno, il paese natale di Renzi, perché insomma di solito Davide, scusa, siccome è molto interessante quello che stai dicendo, mettiti in una posizione in cui ti si senta meglio, perché siamo partiti bene e adesso ti sentiamo un po' meno distintamente. Mi sentite adesso? Sì, sì, sì, ecco. Meglio. No, perché insomma il nucleo forte della rete di Renzi e Giro per l'Italia sono sempre stati i sindaci, gli amministratori locali, gli assessori, infatti Renzi ancora punta sul famoso partito dei sindaci anche a livello mediatico. È più efficace perché i sindaci sono quelli che esprimono concretezza, c'è sempre questo dualismo, questa contrapposizione in Renzi fra il palazzo con la P maiuscola e il territorio, no? Roma viene vista come un posto lontano dove si sprecano risorse, dove ci sono apparati burocratici, la partitocrazia, e infatti il rischio di questa Leopolda, che appunto sarà congressuale verso le primarie dell'8 dicembre, è quella di essere appunto piena, troppo piena, riempita di persone che sono salite sul carro dei vincitori e il carro rischia di... Vogliamo fare coraggiosamente qualche nome esplicitamente, Davide Allegranti? Di chi ha cambiato? Vabbè, appunto, lo ricordavo prima, Dario Franceschini. Franceschini mi viene in mente, no? Franceschini, sì, ma tutta la sua corrente che adesso ha cambiato casacca e si è portata armi e bagagli con Renzi, ma ci sono un altro che mi viene in mente è il senatore La Torre, d'Alemiano di Ferro, che adesso verrà anche alla Leopolda e tra l'altro aveva chiesto di poter coordinare uno dei gruppi di lavoro, perché la prima serata tutti i parlamentari e anche non parlamentari coordineranno dei gruppi di lavoro, si sono divisi per tavoli e lui pare non gli sia stato assegnato nulla, diciamo così, neanche un tavolo da poker ha organizzato qualcuno. Anche per Ruba Mazzetto, niente, vabbè. Insomma, come? No, dicevo neanche per Ruba Mazzetto. Senti, Davide Allegranti, c'è tra quelli di riflusso o di ritorno Edoardo Nesi, che ho cercato in questi giorni, ma era sempre preso dalle assemblee di Scelta Civica, però mi pare che il suo passo ormai sia definitivo di nuovo verso Renzi, perché lui era uno che all'inizio era con Renzi, lo scrittore, ex imprenditore, esatto, di Prato, eccetera, poi Scelta Civica, poi di nuovo invece sarà in queste sere da Renzi alla Leopolda. Ha detto oggi: se Scelta Civica finisce qui, l'unica possibilità di riformare l'Italia è Renzi. Sì. Tu la pensi così? Se Renzi è la soluzione per riformare l'Italia, diciamo così, Renzi è l'occasione probabilmente per scardinare un sistema. Poi diciamo così, anche lui ha delle questioni da risolvere anche con se stesso, cioè è uno che non sa gestire politicamente il dissenso, negli ultimi anni tutti i suoi collaboratori venivano colpiti dalla sindrome del braccio destro. Infatti mi viene in mente che Gori, Giorgio Gori per esempio non c'è, che sembrava il suo maggiore sostenitore. ce ne sono Muro. Tanti, per esempio c'era l'anno scorso, adesso non ci sono più, l'anno scorso c'era Zingales. Pietro Ichino, appunto Giorgio Gori, lo stesso Roberto Reggi, che era il capo della campagna elettorale dell'anno scorso, è stato sostituito da Stefano Bonaccini, anche lui, che è il segretario regionale dell'Emilia Romagna, ex bersaniano, anche lui folgorato sulla via di Lignano, e la cosa divertente è che Reggi definiva Ceausescu Bonaccini. Ceausescu non solo ha cambiato verso, ma gli ha anche preso il posto, e Reggi è tornato a fare l'ingegnere e a coordinare ci sono delle porte girevoli, chi entra, chi esce. Senti, volevo leggere brevemente anche qualche commento sulla pagina Facebook di Effetto Notte su questa dichiarazione di Dinesi, che dovrebbe essere l'unica possibilità a Renzi per riformare l'Italia. Rosanna scrive: per me sì, lo penso da quando ho iniziato a conoscerlo, più lo sento più si rafforza la mia convinzione che sia l'ultima chance. E poi Barbara dice: da quando è andato ad Amici mi è sceso completamente, quando è andato a fare Fonzi da Amici. Rita dice: sto ascoltando quello che Renzi dice sulla 7, si riferisce a cartoni animati che non ho mai conosciuto, un po' di cervello e meno slogan, lei consiglia. Domenico dice: non credo che Renzi possa essere il salvatore riformista. Per Maurizio invece Renzi farebbe molto bene a pensare di fare il sindaco, te lo dice uno che abita in una zona che Firenze gli fa un po', lui dice, un po' schifo, eccetera. Si vede che qualche fiorentino si lamenta. Rita: no, Renzi no, mi sto chiedendo dove hanno tenuto Bernardo Cuperlo, che seguivo Modena fine anni 70 quando era esponente importante della FIGC. Dice: dove l'hanno tenuto finora? Poi Roberto, vabbè, dice: ci vorrebbe un nuovo Benito, questo è il suo auspicio. Vela: sarebbe perfetto per far guadagnare i voti di centrodestra al PD nel contempo, i pochi che sanno cos'è veramente la sinistra dovrebbero lasciare il partito. Ecco, questo per esempio è una cosa che si rimprovera da te, che il partito, il PD, ma anche buona parte dell'elettorato, della base, no? Da tempo dice Renzi non è di sinistra. Qualcosa ha cambiato però negli ultimi tempi? Tu che hai scritto un libro su di lui lo conosci bene. Beh sì, l'anno scorso diceva che i liberi, seguendo altri canoni, diceva che il liberismo è di sinistra, aveva un programma un po' economico, un po' sbilanciato a destra. Quest'anno si è riallineato, riassestato, anche perché la platea di riferimento non è più quella dell'anno scorso, erano prima la premiership, ricordiamolo. Quest'anno è il congresso del PD, quindi inevitabilmente parla un elettorato che è quello del PD. La sua forza è sempre stata questa, però, quella di riuscire a allargare il bacino elettorale, cioè essere un valore aggiunto, perché il PD, purtroppo, diciamo così, per il PD più di questo non riesce a fare, no? Più di questa percentuale, anzi, probabilmente vengono rimpiante le mitiche percentuali veltroniane del 33%, qualcuno forse le rivorrebbe indietro. Renzi, con la sua trasversalità, ha sempre fatto questo, cioè è sempre riuscito a catturare l'attenzione dei delusi, anche del centrodestra, e come una volta ha detto Ilvo Diamanti, gli ex voto, cioè quelli che un tempo votavano PD e che poi dopo il 2008 per esempio non l'hanno più votato, o che alle elezioni politiche del 2013 hanno votato Beppe Grillo, perché infatti non a caso Renzi, nonostante il pubblico di riferimento sia appunto la platea del PD, continua a fare dei richiami agli elettori del Movimento 5 Stelle e agli elettori del centrodestra, non perché un elettore del centrodestra si vada a iscrivere o vada a votare alle primarie dell'8 dicembre di PD, ma perché è già proiettato nella fase successiva, quando insomma, diciamo, per lui la segreteria del PD è una fase di passaggio, il trampolino, no? Per diventare presidente del Consiglio, no? Questo ormai mi sembra abbastanza chiaro. Gianfranco scrive sempre sulla pagina di Effetto Notte - Roberta Giordano, questa è la pagina Facebook: Renzi è un chiacchierone da competizione elettorale, come premier dovrebbe fare i conti col delicato equilibrio del bilancio pubblico, è uno che trasmette però, dice, un certo entusiasmo e sembra crederci a quello che dice. Questa energia, sottolineiamolo, giovanile, visto che lui ci ha sempre tenuto a dire che lui è giovane, gli altri sono vecchi, sono da rottamare, effettivamente c'è, che è abbastanza contagioso, no? Questa energia, l'entusiasmo. Sì, certo, diciamo così, la sinistra ha sempre un problema a trasmettere questo entusiasmo contagioso. Renzi, che viene anche se lui ormai fa parte dell'establishment, infatti la difficoltà sta nello scagliarsi contro la classe dirigente, pur facendone parte. E tu adesso facendone parte, però comunque sia, comunque un giovane, e a differenza di chi c'è stato finora, ancora non ha, fallito, no? Nel senso, ancora ci sono un sacco, infatti il sindaco prevalentemente, il presidente della provincia, già può essere valutato per quello che ha fatto, perché in politica da diverso tempo, però nel senso rispetto a chiunque altro, D'Alema, Veltroni, ancora tante chance, insomma, diciamo così. Sì, certo. Davide Allegranti, io ti ringrazio, ti lascio lì alla Leopolda dove tu resterai questi tre giorni, immagino, poi magari ci racconterai nei prossimi giorni. Allora, buon divertimento. Grazie a voi. Ciao Davide. Ciao. Adesso c'è la pausa, c'è la pubblicità, poi ci sono altri ospiti e tratteremo altri argomenti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi. Prima di parlare del prossimo argomento con l'ospite che ci attende in collegamento, vi ricordo i titoli dei fatti principali di oggi. Naturalmente in primissimo piano la politica, con l'ufficio di presidenza del PDL che sancisce la fine del Popolo della Libertà e il ritorno a Forza Italia, così ha detto Berlusconi nella conferenza stampa al termine della riunione. Poi assicura Berlusconi: ci sono stati contrasti nel PDL e incomprensioni, ma sono sicuro che saranno sanati. Nel frattempo riparte il PD dalla Leopolda. Renzi soprattutto dice: da ora basta inciuci e mai più larghe intese. A Fukushima ha ordinata l'evacuazione del personale nella centrale nucleare in Giappone dopo il terremoto registrato in serata a est dell'isola di Honshu di 7.3 gradi e l'allerta di un imminente tsunami di un metro sulle coste a seguito del sisma. Dall'Europa, durante il vertice di Bruxelles, arriva la solidarietà ai paesi mediterranei per l'emergenza immigrazione, ma per le misure concrete fanno sapere che serviranno dei mesi ancora. È stata arrestata la donna che nelle chiese ha ucciso il figlio di 3 anni, forse una depressione postpartum. Proposta di acquisto per la RAI, Tarak Ben Ammar, imprenditore tunisino, dice se fosse in vendita si dice disposto a comprarla. E adesso saluto Gianna Schilotto. Ciao Gianna. Ciao. Psicoterapeuta, psicologa specializzata in terapia della coppia, con la quale vorrei affrontare uno degli argomenti di oggi. In realtà è un tipo di reato, di delitto, di omicidio, come vogliamo chiamarlo, piuttosto frequente. Credo che lo sia sempre stato nel corso della storia a ogni latitudine, però è veramente un tipo di delitto molto specifico, molto particolare, cioè quello dell'infanticidio, di una madre che uccide un figlio piccolo, una figlia piccola. E, è successo di nuovo e farei sentire prima questo pezzo appunto della cronaca che ci porta in provincia di Lecco, dove una donna ha ucciso il figlio di 3 anni. È stata arrestata la donna che ieri notte ha ucciso a coltellate il figlio di 3 anni. È accaduto ad Abbadia Lariana, un comune sulla sponda lecchese del lago di Como. La giovane, Aisha Koulibaly, di 25 anni, è originaria della Costa d'Avorio, ma vive da 10 anni in provincia di Lecco. Chi conosce Aisha la descrive come una ragazza solare e premurosa, felicemente sposata con un artigiano della zona. Gli inquirenti ipotizzano che all'origine della tragedia possa esserci una depressione postpartum. Solo pochi mesi fa Aisha aveva dato alla luce una bambina. Secondo una prima ricostruzione, il marito avrebbe sottratto la neonata alla furia della donna e poi sarebbe corso in cortile con il figlio ferito tra le braccia. Inutile però l'intervento del 118, le condizioni del piccolo sono subito apparse disperate. Arianna Filippini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Quindi la donna è stata arrestata, ma Gianna Schelotto, quindi possiamo molto probabilmente parlare della famosa nel senso che se ne parla di più, ma in realtà ancora forse non è riconosciuta come un vero disturbo da curare, verso il quale essere comprensivi per quanto riguarda i familiari, la società intorno, ma anche essere attenti come presidi medici, come vogliamo definirla questa necessità. Ma soprattutto non se ne parla ancora e se ne dovrebbe parlare molto di più, perché bisognerebbe davvero passare alle giovani donne, cioè non si tiene mai abbastanza conto degli sconvolgimenti sia ormonali che psicologici che avvengono a una donna che ha partorito un figlio. Intanto c'è tutto il periodo della gravidanza nel quale questa donna si vede trasformare, voglio dire, sono tutte cose che noi siamo portati a considerare normali, ma che in realtà sul piano personale, sul piano individuale possono avere gravi conseguenze sull'equilibrio generale. Che quindi non è da sottovalutare, ma secondo te chi è intorno, non so, un marito, un compagno, qualcuno, un familiare, come si può accorgere, quali sono i possibili sintomi, segni? Ma come sempre in questi disturbi è piuttosto difficile accorgersene, perché per esempio proprio in questi casi una sorta di ostilità, l'ambivalenza che si ha nei confronti del figlio viene vissuta dalla donna come una gravissima colpa, perché noi siamo stati, voglio dire, da decenni, da millenni, la maternità è considerato un dono per le donne, la nascita di un bambino è un evento felice e straordinario. E quindi chi sente serpeggiare dentro di sé lo sgomento, l'ansia e anche in una qualche forma di rifiuto, non riesce a metterlo nemmeno con se stessa. Mm. E quindi si chiude in un senso di terribile solitudine, non riesce a trasmettere il proprio malessere perché di questo malessere si sente in colpa, si vergogna. E allora è questo che rende queste difficile donne… Difficile da leggere poi questa cosa. Alle donne è difficile confidarsi, perché appunto vivono questa cosa come una sorta di peccato, come una mancanza grave. Delle madri snaturate si sentono, quindi non lo possono esprimere. Molti anni fa, alla clinica dell'ospedale San Martino di Genova, io feci una ricerca proprio su questi aspetti della maternità, andai a intervistare delle donne che di lì a pochi giorni dovevano partorire. Mm. E tutte, quando le interrogai sul loro stato, tutte erano entusiaste perché arrivava il bambino, la felicità, la maternità, eccetera, eccetera. Poi chiesi loro di disegnare se stesse e questi disegni rivelarono tutto un altro aspetto, cioè fecero dei disegni, una si disegnò chiusa in un'otre, e cioè prigioniera, e quando le chiesi di spiegare questa cosa disse che sentiva prigioniera della propria gravidanza, un'altra si rappresentò come un fiore piegato dal peso della corolla e mi disse: finora non ho mai avuto responsabilità, ma adesso dovrò piegarmi, e in questo modo mi spiegava il suo disegno. Mm. Un'altra ancora una spirale con al centro un uovo, e lei indicandomi quest'uovo con la matita disse: questo blocca tutto, non mi permette più di tornare indietro, potrò solo andare avanti. Cioè questi disegni rivelarono, perché appunto il disegno sembra una cosa più, più spontanea, ma soprattutto più indecifrabile. Mm. Ecco, attraverso questi disegni venne fuori questa sindrome che poi può portare ad una vera e propria depressione, cioè l'ambivalenza rispetto alla maternità ce l'hanno tutte le donne. Questo è bene dirlo molto chiaramente, no? In modo da non vergognarsi, non è che siccome si sta diventando madre bisogna essere per forza felice. Per chi sta intorno a queste donne. Però naturalmente nel caso di quest'ultimo caso ci sembra esserci qualcosa in più, cioè non soltanto la depressione, ma veramente come se questa donna nutrisse un odio terribile di se stessa e proiettasse se stessa su questi bambini. Perché vogliamo dire, Gianna Schelotto, che dicevo anche all'inizio è un tipo di delitto di omicidio molto specifico, perché in questo caso quando le donne ammazzano i propri figli poi così piccoli è una forma di autolesionismo, possiamo dire. Esattamente, uccidono le parti malate di sé e quindi infatti spessissimo dopo l'infanticidio c'è il tentativo di suicidio. Questo è abbastanza automatico, nel senso che non basta loro, uccidere quella parte di sé che è rappresentata dal bambino, oppure il bambino diventa lo specchio di tutte le loro insofferenze, di tutte le loro ambivalenze. Gianna, quindi abbiamo detto, le donne se ci riescono devono riuscire a parlarne, chi è intorno deve cogliere, deve ascoltare, avere capacità d'ascolto, e poi a chi ci si può rivolgere, però possono bastare i familiari a occuparsi di questa cosa? Naturalmente se ci sono segni, perché poi gli aspetti depressivi si manifestano anche con segni molto più banali, e quindi la disappetenza, e quindi il pianto frequente, il pianto senza apparenti motivi, l'insonnia, cioè ci sono poi tutta una serie di altri sintomi che normalmente si catalogano come risposte alla stanchezza, alla spossatezza fisica del dopo parto, ma qualche volta vanno invece guardati con un'attenzione diversa. Grazie Gianna Schelotto con la tua Grazie attenzione a te, di sempre. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Adesso aggiorniamo nuovamente chi sta viaggiando, poi ritorno a ricordarvi i titoli come sempre quando c'è una pausa per ricordarvi i fatti principali e poi altri ospiti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Vi ricordo che c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, per sapere quali saranno gli ospiti. Effetto Notte trattino Roberta Giordano. Ma prima di trattare i prossimi argomenti, poi ci sarà anche il colonnello Giuliace, da quale ci facciamo dire un po' in dettaglio come sarà questo fine settimana. Ripartiamo coi titoli. In primissimo piano la politica, con l'ufficio di presidenza del PDL, in cui Berlusconi ha detto che in realtà i contrasti si possono superare, così come le incomprensioni, e che si passerà a Forza Italia. Il PD intanto è concentrato su Renzi, che riparte dalla quarta edizione della Leopolda a Firenze. In Giappone c'è stato un terremoto, ordinata l'evacuazione del personale della centrale nucleare di Fukushima, terremoto registrato a est dell'isola di Honshu di 7.3 gradi e l'allerta di un imminente tsunami di un metro sulle coste a seguito del sisma, per ora però non si registrano danni. C'è stato il vertice di Bruxelles, in corso il vertice, si è parlato molto anche di migrazione, arriva la solidarietà ai paesi mediterranei, però per le misure concrete dice serviranno dei mesi. Proposte d'acquisto per la RAI, Tarak Ben Ammar, imprenditore tunisino, ha detto se fosse in vendita si dice disposto a comprarla. Adesso invece voglio raccontarvi una storia che trovo bellissima, perché è fatta di quella voglia di rivoluzione pacifica, piena di dignità, di coraggio, di presa di coscienza, come spessissimo possono avere per esempio le donne, le persone in genere, ma le donne in particolare, perché anche nei paesi più avanzati sono sempre quelle che a qualche cambiamento ulteriore devono e possono ambire. Adesso però parliamo di donne arabe, delle donne dell'Arabia Saudita. Domani, sabato 26 ottobre, in Arabia Saudita molte donne si metteranno al volante. Voi direte, ma cosa c'è di particolare? È l'unico paese al mondo in cui ne succedono a tutte le latitudini, vediamo che soltanto in Italia un femminicidio ogni due giorni, quindi immaginiamo anche in altri luoghi, però l'Arabia Saudita è ufficialmente l'unico paese al mondo in cui le donne non possono guidare, oltre a una serie di diritti che non hanno, c'è questo divieto, sebbene non sia contenuto in nessuna legge, un decreto del 1990 ministeriale che ha formalizzato una specie di consuetudine. Ne voglio parlare con Leila Ben Salah. Buonasera, sì, buonasera. Lei, che è giornalista del Corriere Adriatico, giornalista italo-tunisina, che è coautrice con Ivana Trevisani del libro Ferite di parole, le donne arabe in rivoluzione, mille fuochi di voci, di gesti e di storie di vita. Quindi sembra un gesto banale per noi, ma lì rappresenta effettivamente una specie di rivoluzione pacifica. In realtà è da qualche anno che queste donne tentano, si filmano vicendevolmente, si mettono su YouTube. C'è anche dell'allegria nel loro gesto, oltre a questo senso di trasgressione, però è anche drammatica la questione, no? È una rivoluzione a tutti gli effetti, secondo me, perché il fatto che le donne arabe finalmente in Arabia Saudita riescano a mettersi al volante e a guidare in giro per la città è una rivoluzione per loro. E lo è un po' anche per tutti, infatti noi nel libro che si chiama Ferite di parole, che tu hai citato, vogliamo proprio restituire attraverso le storie singole, collettive, proprio lo straordinario e coraggioso protagonismo delle donne nelle rivoluzioni arabe, che non nascono all'improvviso, non è che la primavera araba sia scoppiata così all'improvviso, ma come è successo anche in Arabia Saudita c'è dietro una lunga preparazione, un lavoro che le associazioni femminili fanno sul campo da tantissimi anni, e per questo abbiamo voluto proprio parlare con loro e restituire le loro storie ai media, al mondo occidentale. Che cosa dicono in particolare, Leila, queste donne? Queste in particolare dell'Arabia Saudita, per esempio. Queste donne raccontano la loro voglia di partecipare, voglia di stare non solo al volante, ma come stare un po' al mondo, no? Certo. Quindi poter un semplice gesto che per noi sembra così abituale, così banale, per loro è una grande conquista, una vera e propria rivoluzione. Tra l'altro il ministro dell'Interno dell'Arabia Saudita proprio in questi giorni ha ammonito che se la giornata di protesta, cioè domani 26 ottobre, si chiama campagna 26 ottobre, dice dovesse andare avanti, le autorità avrebbero risposto fermamente con la forza. Sì, questa è una cosa che si usa moltissimo. La minaccia si usa moltissimo, è stata utilizzata anche molto nella primavera araba a Tunisi, in cui, o anche recentemente nelle manifestazioni proprio delle donne a Tunisi, in cui la polizia ha detto di avere mano e bastone libero. In realtà le donne sono comunque scese in piazza, hanno manifestato e hanno portato con loro anche i bambini e hanno ottenuto quello che volevano. Perché mi viene in mente ogni tanto quando si parla di donne arabe, Oriana Fallaci, che sulle donne musulmane in particolare aveva a volte verso di loro una certa ostilità, perché diceva sono passive, non fanno nulla per liberarsi del giogo, insomma della sudditanza. Invece ne hanno fatte di cose nella storia, solo che c'è una repressione fortissima, e guardiamo anche in un paese che sembrerebbe moderno per tanti versi, l'Arabia Saudita, paese ricchissimo, il maggior fornitore di petrolio, eccetera, quello che invece succede, no? Leila? Sì, assolutamente. Cioè, io penso che le donne abbiano una grande forza anche in Arabia Saudita e in tantissimi paesi, semplicemente noi non lo sappiamo perché non ci viene raccontato. E tra l'altro anche Amnesty International è intervenuta, no? Sollecitando le autorità saudite a rispettare questo diritto, che è veramente un diritto basilare, perché le donne per spostarsi, per fare qualsiasi cosa, dipendono dagli uomini e devono chiedere sempre il loro permesso. Che cosa possiamo augurare allora, Leila, per domani a queste donne? Beh, io augurerei una bella giornata, una bella passeggiata al volante per tutte, e soprattutto cercherei di sfatare certi miti che sono stati riportati come religiosi, che dicevano addirittura che guidare per le donne può comportare delle malformazioni alle vaglie e quindi anche delle complicazioni in eventuale gravidanza. Andare in bicicletta, la perdita della virginità in molti altri paesi, insomma, come sempre, nulla di nuovo sotto il sole, cose veramente raccapriccianti. Leila Ben Salah, io ti ringrazio, ti saluto e con tutto il sostegno possibile a queste donne immaginiamo e speriamo che sia davvero una giornata di grande movimento in tutti i sensi. Grazie mille, grazie a voi. Grazie Leila. Ed è tempo adesso di guardare verso il cielo con il colonnello Mario Giuliacci. Ciao Mario. Ciao Roberta, un saluto agli ascoltatori che ci stanno seguendo. Bene, tu sarai. A milioni ci stanno seguendo, vi ricordo www.meteogiuliacci.it. Ecco, sento il fianto sul collo di questi milioni di ascoltatori. Quindi dacci buone notizie, vero? Sì, vorrei portargli, guarda, c'è tutto il mio sforzo. Diciamo che sono così, non troppo brutte né troppo belle. Diciamo, riassumiamo così. Cieli grigi al nord, prosegue il bel tempo al centro-sud, ancora temperature gradevoli. In dettaglio, domani sabato cieli grigi al nord di Toscana, qualche debole pioggia su Liguria e Venezia Giulia. Domenica ancora molto nuvoloso, questa volta sul tutto il nord Italia, tranne l'Emilia Romagna, nuvole anche. Cioè anche domenica tutto nuvoloso al nord? Nuvoloso tranne l'Emilia Romagna, nuvole anche sulla regione tirrenica e qualche pioggia su Liguria, Alto Occidentale, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia, ma sono piogge deboli, intermittenti, per cui permettono anche di uscire senza l'ombrello. Temperature gradevolissime, queste temperature che già abbiamo assaporato in questi giorni e che non subiranno variazione almeno ancora per altri 4-5 giorni. Come vedi, quindi notizie così, insomma. Ho elargito qualche brutta notizia, ho cercato di compensarla con qualche zuccherino qua e là. Sì, di zuccherini al nord diciamo non ce ne sono molti. Senti, almeno possiamo fare una piccola anticipazione per la prossima settimana? Cioè possiamo sperare anche al nord? Vedi, tu me lo chiedi, ma dopo sono costretto a portare ancora notizie più cattive, perché la prossima settimana direi avrà due caratteristiche. Da una parte sarà una settimana piuttosto piovosa, ma come al solito soprattutto sul nord Italia, ma arriverà aria più fresca che finalmente metterà in riga le temperature, che attualmente sono 4 o 5 gradi, soprattutto al sud è superiore alla media, che tutto sommato danno anche un po' di fastidio, quindi le temperature ritorneranno sui valori previsti per questo periodo dell'anno dopo due mesi che sono state al di sopra delle righe. Ma io non l'ho sentito, comunque ci basta così. Grazie colonnello Giuliacci, www.meteogiuliacci.it. Ciao colonnello, un sereno fine settimana a te. Noi ci sentiamo tra poco. Vi ricordo che c'è anche il Twitter Roby, scritto con la Y, _ Giordano.